Ui! Sto fregatando un sacco che non me la frega un cazzo. Tutti credono che agisco solo per dispetto. Ma mi odio tanto via di mezzo. Contro tutti, tanti contro. Contro tutti, tutti contro! Sono tutti contro! Buonasera. E ciao. Sto poco con le magie. Ma faccio anche gli spin. Facendo come di succede la scena. E poi la sua fuori è sabato sera. Le checche. Oh! Questa è dedicata ai nostri parenti parlamentari. Ad averne! Parlite! Non si fa la parano! Parlite! Come le cose che lo realizzi mai! Parlite! Come guardare il faccio della realtà! Parlite! Tutti dietro alla totalità! Vai, vai, vai, vai! Questa è very sexy. Questa è hard. Questa è hard. Dale, dosi, mezzo. Vai, non lo cambio! Vai, non lo cambio! Vai, non lo cambio! Non mi da buttare il cesso! Ma sono politicamente corretto! Ma tu hai lo stesso! Piazza! E questa? Va! Pelon! Con i suoi capelli! Però sono lì! cavolo di guardate! Ho cambiato quello metto! Mi cambierò gli zotti! Vai alla faccia, alla copertina! Lutare, si tanti che è in vetrina! Oppure non sarò mai nessuno! Sono destinato a prendermi il culo! Il mio sotto non è per noi! Non mi ho più la parte della società! Sono lì! Date già che dita! Siamo dove le fare! Ma no, vai alla faccia, da come dina! Puttale, dati che la sai, madrina! Non vorrei non sarò mai nessuno! Non voglio tirare la prova, ma tu no! Vai, bra. Ogni giorno uscirò, rischio, stanno cosa fa? Stavo in belle, Questa canzone sfocia tutto il nostro orgoglio patriottico. Questa canzone è Mondezza Patria. Grazie Italia. Patria! Patria! mafia, io sto sotto famiglia e io cosa sono, non faccio neanche una lira. Figlio di terrore, ma ti arrivo dalla tribù di ariani. Mi faccio la famiglia, ma i valori sono poliga, ma chi siano ore. Sì, finalmente! Sono anni che speriamo in un regalo del genere. Adesso una preghiera. Finalmente. Adesso come fine concerto, poi vi lasciamo andare in pace. La preghiera consueta. Auguri. Aspetta. Ti meriti un fiore. Di secoli vissuti nel terrore, non le voglio più le nostre anime, questi tempi siamo, ma sono noi, non siamo mica papà, poi vito la città con gente fuori di testa, concedo la storia, la mia racconto la bestia, mi fa in punta aperta, vito ragazzino, non sono fatto giusto, mi sono tutto un gradino, fregare la gente è la tua vocazione, e qui per te la tua religione, che via i giovani di la legge di Stato! Senza morte sei un criminale! Sono ridicole, però sono giubile per la drenaggia e mi risulti, pratica la vita, un vino di mezzo e poi si lavora le dita per si pensa, creare la gente è la tua vocazione, sì. Sei pure per te, la tua religione. A tu per dire, vieni. Grazie a tutti. Grazie dei fiori. Ah, la prossima volta le mimose, eh.